voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Prima puntata. Un giorno un uomo molto ricco, ma per bene, che conosceva la vita anche grazie alla mondanità e alle cose futili e costose, entrò nell'immensa casa di famiglia con l'intenzione di far capire alla moglie che non l'amava più, pure amandola moltissimo. Tantissime volte aveva tentato di farlo, ma sempre qualcosa all'ultimo momento lo impediva, e forse a questo punto non era nemmeno più necessario farlo capire. Forse la moglie lo sapeva già, ma l'uomo in questione si trovava quel giorno in un particolare stato d'animo, di scontentezza nei confronti di se stesso e dunque di crudeltà verso gli altri. Non provava più alcuna attrazione verso la moglie ormai da 10 anni. Non erano più giovani né l'uno né l'altra, e di questo provava una grande vergogna verso la moglie, perché gli pareva rivelatore di un lato volgare della propria natura. Da parecchi anni, e come per caso, avevano cominciato a dormire in camere separate, ma entrambi sapevano che non era per caso e che qualcosa di impercettibile e di fatale era accaduto, per cui era impossibile dormire nello stesso letto. Così come era impossibile vedersi in altro modo che vestiti, e possibilmente sempre in presenza di persone, meglio se estranei alla famiglia. Più il tempo passava e più l'uomo sentiva dentro di sé il dovere di spiegare alla moglie qualcosa che egli sapeva inspiegabile, tanto più inspiegabile in quanto il tempo e la consuetudine coniugale, anziché attenuare un naturale pudore che esisteva in entrambi, lo aumentavano al punto che spesso l'uomo provava pudore e anche stizza se la moglie lo sorprendeva in vestaglia o appena sveglio o intento a leggere un libro. Avrebbe preferito apparire in quei momenti soltanto a se stesso o ad estranei, ma non a lei. Con lei si sentiva veramente a suo agio soltanto in abito da sera, quando il collo inamidato e il plastron imponevano tra lui e lei una inaccessibilità dolorosa ed elegante che era il segreto del loro fascino. Eppure con piacere toccava qualche volta i riccioli di lei o un suo vestito di crepe Georgette che trovava per lei più elegante di altri elegantissimi. Qualche volta con piacere la guardava ridere e una volta perfino provò un tuffo al cuore quando lei inciampò e stava per cadere come una bambina miope. Ma era un piacere molto esangue, ed egli ricordava invece con dispiacere i loro amori giovanili. Quando più grassottella la trovava nei prati ad aspettarlo, un po' sudata, con le ascelle non depilate, piena di trepidazione come certe rarissime cavalle di sangue, i capelli rossi, corti e ricciuti, sostenuti dal loro riccio, e le mani non molto curate, ma secche, tremanti e non calme e morbide di crema. E il dispiacere, che nasceva non soltanto dal sentimento della brevità delle cose, ma soprattutto della loro impossibilità a rinnovarsi e a riprodursi nelle stesse persone, loro due, secondo l'uomo per colpa sua, era la causa della vergogna che provava verso di lei. La moglie, che era diventata una donna alta, con capelli ricci, corti e rossi, con occhi sventati e un sorriso infantile e mondano che stirava le piccole poche rughe ai lati degli occhi e della bocca, non aveva capito tutto ciò che lui aveva capito e che avrebbe voluto spiegare, ma non a parole. Lo aveva però sentito fin dal primo giorno in cui il marito dormì in un'altra stanza. Da allora aveva continuato a sentire, forse non volendo capire, o semplicemente perché il carattere di lei era diventato sempre meno fisico e tendeva, anche per educazione, a provare un sentimento amoroso e coniugale molto forte, ma sfumato. Entrato nella casa, l'uomo fece a piedi una delle due grandi scalee arcuate che portavano ai saloni d'entrata. Poi si infilò nell'ascensore piccolo e giunse in un salotto veranda bianchissimo, con grandi piante di azalee bianche, dove la moglie e i figli lo aspettavano. Salutò tutti, baciò la moglie su una tempia e si avviò verso la sala da pranzo, che era ovale, con il muro laccato di azzurro chiaro su cui stavano appesi, uno di fronte all'altro, due paesaggi dell'Onghi. In questa stanza, ai quattro lati, su piedestalli di porcellana azzurro chiari, c'erano grandi piante di azalee in fiore color rosa. Davanti ai quadri stavano due giovani camerieri in giacca nera e pantaloni grigi. Accanto alla porta il maître, in pantaloni rigati e marsina nera. L'uomo aspettò che entrasse la moglie, che si sedesse a un capo della tavola. Allora anche lui sedette all'altro capo e subito dopo di lui si sedettero i due figli, la femmina alla sua destra, il maschio a sinistra. L'uomo scherzò col figlio in lingua inglese. Il ragazzo era allegro ma troppo educato e debole e parlava in inglese meglio che in italiano. Poi, come per consolarsi, prese nella sua la mano della figlia, sorridendo e guardandola negli occhi. Ma anziché consolarsi, in modo completamente inaspettato si commosse, perché rivide nella figlia quindicenne, che somigliava a lui, la stessa allure della madre quando si erano conosciuti. L'avvicinò a sé con infinita tenerezza e affondò il volto nel casco di capelli ricci e odorosi di capretto. La colazione si svolse come sempre. I due camerieri seguivano i rari cenni del maître. Sia il maître sia i camerieri sapevano che non c'era bisogno di alcun cenno, ma i cenni si facevano lo stesso ed eseguivano in perfetto silenzio, come in un film muto, ciò che erano abituati a fare. Al caffè i figli uscirono, la figlia inciampò e i due sposi si trovarono soli in un immenso salotto con le finestre aperte. Stettero un po' in silenzio. Si udiva il piccolo rumore di una falciatrice da giardino. Poi parlarono del viaggio a Bangkok, di un notissimo sarto che frequentava la casa, poi del possibile, augurabile matrimonio o unione di una loro amica vedova con un professore d'università povero, ma giovane, bello e per bene, che aveva salvato l'amica dall'alcolismo. Tacquero. L'uomo chiuse gli occhi. Poi l'uomo aprì un giornale e lo sfogliò con attenzione, facendo in modo che non si ponesse completamente tra lui e la moglie. Di tanto in tanto la guardava in silenzio, appoggiò il giornale sulle ginocchia e la guardò più a lungo. Stava per cominciare a parlare, non sapeva quello che avrebbe detto, ma sapeva che l'avrebbe detto, quando la moglie, alzandosi, gli strinse un istante la mano. Subito si scostò dal marito e, avvicinatasi al telefono che era accanto alla finestra, cominciò una lunga telefonata, quasi silenziosa e fatta quasi esclusivamente di sorrisi, con un'amica. Egli si alzò, si avvicinò a lei, la baciò su una tempia e uscì. Altri. Il giorno di Ferragosto dell'anno 1938, un bambino di 8 anni, di ottima famiglia, con la testa molto rotonda ma fragile, si aggirava nei pressi della capanna sulla spiaggia del Grand Hôtel des Bains, al Lido di Venezia, verso le 2 del pomeriggio. Era solo, perché la sua abituale compagna di giochi dormiva insieme alla bambinaia nella stanza candida dell'albergo. I bambini tedeschi che aveva conosciuto pochi giorni prima, di qualche anno più vecchi di lui e già nuotatori esperti, lui non imparava mai, non avevano il permesso di rimanere sulla spiaggia a quell'ora e giocavano a cricket nel prato in mezzo al parco, tra gli spruzzi degli annaffiatoi. La madre del bambino, che amava molto il sole, stava distesa metà in ombra e metà alla luce, su un lettino coperto da un asciugamano bianco di spugna di lino, con grandi cifre bianche simili al disegno di una torre. Bronzea e lucente di ambra solare, i lunghissimi capelli neri, sciolti e rovesciati dalla nuca in su oltre il bordo del lettino, lambivano la sabbia. Di tanto in tanto, forse nel sonno, aveva movimenti lentissimi e regali di atleta o di serpente boa che i raggi potenti del sole abbagliavano. La signorina Fräulein Etta dormiva, ma non si poteva mai esserne certi, su una sdraio nel terrazzino della capanna, completamente vestita, la pelle delle guance, delle braccia e delle gambe uniformemente rosa e di un odore uniforme, sapone di Marsiglia. Il suo volto era come tappato ai lati da due chignon di capelli misti, biondi e bianchi, fatti di trecce sottili e indissolubili. Il caldo era molto forte, l'acqua immobile e la spiaggia quasi deserta. Eppure, di là dei cespugli e della rete metallica dietro le capanne, il bambino vedeva muoversi e occhieggiare una folla di gitanti con cartoni e sporte, alcuni dei quali allungavano il collo oltre la siepe per guardare la sabbia rastrellata a disegni ondulati e oltre la sabbia il mare. Il bambino stava nell'ombra a forma di casetta allungata dietro la capanna. Fermo, molto distratto, non si sa da che cosa, il secchiello in una mano e la paletta nell'altra, si sarebbe detto nell'atto di sostenere la sua testa rotonda e molto ingenua. A un tratto vide un uomo scavalcare la siepe. Nel farlo scivolò due volte, si impigliò nei reticolati che strapparono l'abito blu, ma pareva avere molta fretta, e finalmente cadde, con movimenti incrociati degli arti troppo lunghi, di qua del recinto. Stette un po' così ammucchiato tra la sabbia polverosa, guardando a destra e a sinistra. Vide il bambino che lo guardava e, dopo essersi assicurato che non c'era nessun altro che lui, lo chiamò con un cenno della mano. Pieno di terrore, ma al tempo stesso attratto, il bambino si avvicinò con una piccola corsa bilanciata dal secchiello e dalla paletta. L'uomo si era alzato. Aveva raggiunto lo stretto spazio tra le due capanne vuote dell'ultima fila e lo aspettava lì. Era un uomo molto alto e magrissimo, con la pelle bianca, un volto a punta e due grossissime lenti insieme opache e scintillanti attraverso cui non era possibile vedere gli occhi. Il bambino notò che una delle stanghette di metallo era rotta e aggiustata con un filo nero da cucire. Anche le scarpe erano rotte e i calzini arrotolati sulla caviglia fin quasi alla scarpa. L'uomo cominciò a spogliarsi in modo così rapido e magico, data la sua altezza, che in un attimo fu in mutande, con grande vergogna e imbarazzo del bambino. Un paio di mutande larghe di tela nera con uno strappo a forma di sette sul dietro. L'uomo arrotolò scarpe e abiti e, porgendo al bambino l'enorme fagotto, disse: «Mi fai un piacere?» e tentò di carezzarlo con la fredda estremità di un lunghissimo arto. Non sembrava una vera e propria mano. Il bambino, paralizzato dal terrore, si ritrasse, non rispose, e l'uomo ripeté la domanda. Poi gli chiese di custodire i suoi vestiti per pochissimo tempo. Voleva lavarsi i piedi e vedere il mare che non aveva mai visto. Dopo gli avrebbe dato la mancia. Queste spiegazioni e i grossi occhiali rotti attenuarono il terrore nel bambino ed egli, suo malgrado, fu spinto, fisicamente spinto, verso l'uomo da una grandissima pietà. Allungò le braccia. L'uomo, nel posare il fagotto, si avvicinò guardandolo da vicino come fanno i miopi e vide le lacrime che sgorgavano sulle sue guance. Sorrise con la bocca bagnata e informe che sapeva di vino e tabacco e disse: «Ti hanno messo in castigo?» e scomparve. Il bambino vide due sottili e chilometriche gambe di legno, la bandiera nera delle mutande strappate in uno sventolio generale laggiù in fondo alla spiaggia, e subito fu terrorizzato dalla responsabilità e dal peso degli abiti che non riusciva a reggere tra le braccia e gli caddero nella sabbia. pensò all'uomo e lo odiò, dimenticando totalmente il sentimento di poco prima. Con sforzi enormi riuscì a trascinare il fagotto puzzolente vicino alla capanna. Spiò la madre e Fräulein Etta. Dormivano entrambe. Con un ultimo sforzo portò il cumulo degli abiti in un cantuccio della capanna, lo ammucchiò nel fondo, ma proprio in quel momento sentì dietro di sé l'ombra e la voce strillante dell'istitutrice. «Was ist denn das?» Il bambino farfugliò in italiano, non trovò le parole in tedesco, posò le due mani sulla testa rotonda come per sostenerla e con l'intenzione, non sapeva né riusciva a sapere bene quale, di raccontare tutto in fretta o di chiedere perdono. Le voci risvegliarono la madre, che sollevò con una mano i capelli e chiese cos'era successo. Fräulein Etta spiegò ciò che non poteva spiegare perché non le era stato spiegato e non seppe andare oltre una serie di sospiri agitati che cominciavano e finivano con «Ein Mann!» Fu chiamato il fedele vecchio bagnino che esaminò il fagotto, allontanato dall'interno della cabina con brevi tocchi della punta delle scarpe da Fräulein Etta. E corse sulla spiaggia con i pugni chiusi a cercare l'uomo. Fu individuato, subito preso per un braccio e portato a loro tra bestemmie, spinte e contorcimenti dei lunghi arti. Parve al piccolo che l'uomo avesse fatto il gesto di sputare contro il bagnino che lo trascinava. La madre disse: «Lo lasci andare, Giovanni». L'uomo, liberato dal bagnino, si avvicinò al gruppetto familiare e disse alla madre che aveva intenzione di pagare, che lui non era un ladro e non aveva mai rubato in vita sua. Cavò dal fagotto una specie di portafogli di stoffa nera e avvicinandolo agli occhiali stava per estrarre del denaro, ma la madre lo fermò con un gesto della mano e disse «No, no». Poi l'uomo guardò il bambino con un sorriso che questi intuì debole e falso. Voleva accarezzarlo, ma la Fräulein scostò il bambino. Allora l'uomo se ne andò col fagotto e nelle mutandone, a passi lunghi e lenti, e per simulare una dignità che aveva perduta fin dalla nascita, si riavviava i sottili capelli a testa alta. La madre ordinò al bagnino di curvare l'ombrellone. Si girò lentamente ed espose tutto il lungo corpo nel costume nero, al sole. Fräulein Etta cominciò a fare al bambino una paternale, a raffiche sugli unbekannten, sconosciuti, a pause sempre più lunghe, fin quasi al tramonto. Poi calò il sole e la famiglia si ritirò nell'appartamento dell'albergo, come in una clinica. Durante la notte, il bambino pensò all'uomo, ascoltando la pigra acqua della laguna appoggiarsi sulla spiaggia insieme ai raggi lunari. Si domandò molte cose di lui, cercando di arguirle dagli occhiali, dalla pelle bianca, dalle scarpe di gigante, dal fagotto. Fu preso ancora da grandissima commozione e due o tre volte pianse. Chi era? Un ladro? Un ex carcerato? Un povero? Un ricco diventato povero? Avrebbe potuto accadere anche a lui da grande una cosa simile? Un ammalato? E com'era possibile che non avesse mai visto il mare? Aveva o non aveva famiglia? E lui perché aveva pianto? Tutte queste domande rimasero senza risposta nel bambino e più tardi anche nell'uomo adulto, ma fu da quel giorno che egli seppe, proprio perché nessuna risposta ebbero mai le sue domande, dell'esistenza degli altri. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.